Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti voi in contatto con il Groove Master Studio di Radio 24 per un altro sound check, prova del suono numero 278. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e più tardi, dopo l'informazione delle 20, daremo il buongiorno al maestro Carlo Siliotto, mio amico, compositore, eccellente compositore, direttore di orchestra lì a Los Angeles ormai da tanti anni, perché richiestissimo come compositore di colonne sonore per gli studios di Hollywood, ma anche per il cinema messicano. Sì, tanto per presentarvi Carlo Siliotto, classe 1950, romano, diplomato in composizione al Conservatorio di Frosinone, è lui che fondò nel 1973 il Canzoniere del Lazio, band molto famosa proprio in quel periodo fra negli anni 70 fino ai primi anni 80, perché riproponeva il sound folcloristico del nostro paese. Questa sua passione per un certo tipo di strumentazione, proprio per il folklore dei popoli anche a livello internazionale, gli ha permesso poi di potersi cimentare con la composizione per il cinema, lavorando con alcuni dei registi italiani più quotati e poi trasferendosi 20 anni fa lì a Los Angeles, dove è richiesto, lavora con grandissima passione. Quindi ci faremo raccontare da lui come funziona il suo lavoro e come si vive in California. Molto spesso parliamo con amici residenti a New York, questa volta invece faremo un salto in California, ma questo sempre dopo l'informazione delle 20. Invece veniamo al soundcheck di questa sera, che vivo con un particolare stato d'animo, perché subito dopo la puntata sono costretto a caricarmi gli strumenti in macchina e a scappare alla Casa del Jazz di Roma, dove mi aspettano, perché questa sera ho un concerto lì. Lo dico soltanto perché magari se ci sono amici a Roma questa sera che non sanno che cosa fare, ecco, vi aspetto alla Casa del Jazz e dalle 21:30 saremo sul palco in questa bellissima location dedicata alla musica di qualità. Allora, diamo il via al sound check. Ho rubato già parecchio tempo alla musica, ma recuperiamo subito perché voglio presentarvi un meraviglioso compositore, artista cubano di nome e di fatto. Si chiama infatti Alex Cuba, in verità si chiama Alexis Puentes, poi il nome d'arte Alex Cuba, cubano canadese, cantante, compositore, arrangiatore, che esegue le sue composizioni sia in spagnolo che in inglese, da noi non molto conosciuto, ma già con una carriera importante. Ha vinto alcuni premi come i Juno Awards nel 2006 e nel 2008 e poi vincitore anche nel 2010 dei Latin Grammy come miglior nuovo talento. Nuovo album per lui, si intitola Healer, ma prima di farvi ascoltare qualcosa dal nuovo album direi di presentarvi il brano che in qualche modo gli ha portato fortuna e successo, che si intitola come il nome della moglie. Infatti il brano l'ha dedicato a sua moglie, si intitola Sara, e lui è Alex Cuba, che fa la sua prima apparizione qui al soundcheck di Radio 24. Si intitola semplicemente Sara, come il nome di sua moglie, questa composizione scritta e interpretata dal bravissimo Alex Cuba, lo dicevamo, non molto famoso da noi, questo ragazzo con sangue cubano e canadese che si è già aggiudicato diversi premi e che ultimamente, collaborando pure col mio amico Leo Sidran, ha realizzato un nuovo album intitolato Healer, e in Healer troveremo anche tutte le armi vincenti di Alex Cuba, questa sua passione per il sound latino, viste le origini, groove, R&B e funk, strutture vicino al jazz, e poi alcune partecipazioni eccellenti come quella della vocalist Ania Marina, che negli Stati Uniti è molto apprezzata anche per le sue composizioni che vengono utilizzate come colonne sonore di film e telefilm, per questo singolo intitolato No Esperes Más, che troverete anche su YouTube YouTube con un video molto ben realizzato. E a proposito di colonne sonore, vi ricordo che subito dopo l'informazione delle 20 qui al Soundcheck di Radio 24 incontreremo collegato con noi via Skype il maestro Carlo Siliotto, che vive a Los Angeles e lavora come compositore di colonne sonore. Ma torniamo a Alex Cuba con Ania Marina. Questo è il nuovo singolo, molto ben realizzato, molto interessante, si intitola No Esperes Más. Soundcheck, il suono della musica. Compatible, brano scritto e realizzato da Drew of the Drew, giovane bassista americano che utilizza abbigliamento ma anche un basso fluorescente con la sua formazione, uno stranissimo organico, due batteristi, una bellissima chitarrista e poi la voce inimitabile, lasciatemelo dire, di questo giovane talento chiamato Joanna Theaters, che proviene dal Berklee College of Music di Boston, scuola che ha formato anche il talento di Esperanza Spalding. Esperanza Spalding ha studiato al Berklee College of Music di Boston, ha ottenuto un full credit per il suo talento, ovvero spesata in tutto e per tutto, non solo i corsi di musica, ma aveva anche vitto e alloggio, e ogni tanto ancora oggi con la sua attività in auge Esperanza Spalding si affaccia per le sue masterclass. Vi sto parlando di Esperanza Spalding perché proprio ha appena ultimato il tour americano e prestissimo arriverà in Italia, e vorrei presentarvela in questa composizione scritta da Nicholas Payton, trombettista di New Orleans e lui l'artefice del nuovo movimento culturale e musicale denominato BAM, Black American Music. Tra l'altro il nostro amico giornalista Nicola Gaeta ha scritto anche un libro su questo movimento. Tanto per darvi l'informazione, per salutare Nicola Gaeta che è stato nostro ospite qui al Soundcheck nella passata stagione. Allora vi presento Nicholas Payton con Esperanza Spalding, il brano si intitola Freesia, scritto da Nicholas Payton, tanto per anticiparvi che fra pochissimo, dopo le strade in diretta, invece ci ritroveremo qui al Soundcheck di Radio 24 con il nuovo singolo di Esperanza Spalding intitolato One. Eccolo qui, Nicholas Payton, Esperanza Spalding. Soundcheck, il suono della musica. E nel sito esperanzaspalding.com troverete tutte le date del tour europeo. Sì, Esperanza Spalding anticipa il nuovo album con questo singolo intitolato One. Questa ragazza che si è già esibita alla Casa Bianca per Barack Obama e sua moglie Michelle, ha già vinto i Grammy Award, ha suonato con i musicisti più importanti del mondo ed è pronta per sbarcare in Europa per una serie di appuntamenti importanti, quindi tutte le informazioni le troverete visitando il suo sito esperanzaspalding.com. E da One, singolo di Esperanza Spalding, siamo pronti per chiudere questa prima parte del Soundcheck anticipandovi che subito dopo l'informazione incontreremo via Skype il maestro Carlo Siliotto, collegato con noi da Los Angeles, dove vive e dove lavora come compositore di colonne sonore, quindi ci faremo raccontare come funziona la sua attività. Per chiudere in bellezza la prima parte, eccoli qui, tornano Fat Freddy's Drop, nuovo album molto particolare intitolato Bass, c'è molta elettronica, ma l'album viene aperto come sempre dalla voce del bravissimo Joey Duki con questo Wairuga Blues. Questo è il Soundcheck di Radio 24, ci sentiamo dopo per Freddy's Drop, dopo l'informazione di Radio 24 collegati con Los Angeles e Carlo Siliotto. A dopo. Soundcheck, il suono della musica. Eccoci puntualissimi, pronti per dare il via alla seconda parte del Soundcheck e come promesso ci colleghiamo con Los Angeles, dove si trova nel suo eremo il maestro Carlo Siliotto. Ci sei Carlo? Batti un colpo. Eccolo qua. Oh, che piacere. Beh, io intanto ti dovrei dire buongiorno, non buonasera, ti sei appena svegliato sicuramente. Esatto, più o meno. Poi c'ho questa reputazione terribile di uno che dorme fino a tardi, però insomma. Beh, strano per un italiano che vive in America. Di solito gli italiani che vivono negli Stati Uniti sono considerati tutti delle persone molto rigide e fiscali da un punto di vista anche lavorativo e imprenditoriale. No, ma infatti adesso è perché non sono oggi in particolare, questa settimana, in un turmoil di lavoro. Quando in realtà sono su un progetto, mi sveglio presto, eccetera, ma appena posso la faccio più lunga, insomma. E fai bene. D'altra parte, vivi una vita hollywoodiana ormai da tanti anni. Da quanto tempo sei a Los Angeles, Carlo? Guarda, io ho avuto la prima, come si dice qui, la prima gig, cioè la prima occasione di lavoro, ce l'ho avuta nel 1994, con un bellissimo film di Carlo Carlei che si chiamava Fluke, ed è stata la prima esperienza americana. E poi però che mi sono stabilito qui proprio a vivere sono 11 anni. Dopo Fluke ho fatto avanti e indietro per una decina d'anni e poi invece ho deciso proprio di stabilirmi qua. Insomma, la base principale è questa. Ecco, noi molto spesso qui al Soundcheck abbiamo ospitato musicisti anche italiani che hanno scelto New York come base per poter sviluppare i loro progetti, per poter studiare e fare la loro carriera. Invece te hai scelto la California, hai scelto Los Angeles, senz'altro non solo per motivi climatici, ma anche perché la tua attività di compositore e di colonne sonore certamente a Los Angeles trova uno sfogo maggiore, o no? Sì, questo è senz'altro vero, cioè questo è il motivo che mi ha portato qui, però il motivo vero che poi mi ha spinto a decidere di restare qui, mi ha affascinato della California, è il fatto che questo paese, io parlo della California perché io conosco principalmente la California, ho girato un po' per gli Stati Uniti, ma insomma la mia America è la California, sì. Questo è il paese più tollerante del mondo, cioè la California, in particolare Los Angeles, è un melting pot dove si incontrano culture di tutto il mondo, dove non sentirai mai una parola che manchi di rispetto a qualcun altro, o dove il rispetto dell'altro è proprio la legge per tutti uguale, perlomeno questa è la percezione che ho io, non sentirai mai una parola che possa, come dire, discriminare qualcuno per appartenenze politiche, nazionali, sessuali, geografiche, religiose o tutto quello che si possa usare per discriminare un'altra persona. Tutti sono molto attenti a questo e questo non è un fatto formale, perché la forma è sempre figlia di una sostanza e quindi questa è la ragione, a parte il fatto climatico, a parte il fatto che io abito sull'acqua, che ho le barche ormeggiate sotto le mie finestre, e questo è sempre stato quindi un sogno nella mia vita. Tu non sei a Hollywood, dove ti trovi? Scusami? Non vivi a Hollywood, dove vivi? A Los Angeles? Io a Los Angeles vivo a Marina del Rey, che sarebbe il porto praticamente, il porto, come si dice, da turistico, di porto, il porto turistico di... Sì, di Los Angeles. E quindi io ti immagino già la mattina verso le 11, mezzogiorno, in tuta a fare jogging lì a Venice Beach, Malibu. Lo fai? Quante volte l'hai fatto? No, mai. No, niente di tutto. Io proprio no, di questo sono proprio... La mia pigrizia vince su qualunque altra cosa, però devo dire vivo in un complex che c'ha la piscina, che c'ha la gym, che c'ha tutta una serie di cose, per cui basta Carlo, non dirci altro perché un po' ti invidiamo. Senti, io direi di andare alla musica e di passare proprio a una delle tue composizioni, un brano realizzato per un progetto, che cos'era, un film o una cosa per la televisione, di Robert Markowitz, per David era uno degli episodi della saga della Bibbia, fatta in coproduzione con TNT, ed era una miniserie di due episodi. Allora, con un casting stellare, Jonathan Pryce, Jeremy C., insomma c'era un sacco di gente. The Jordan River è una composizione del maestro Carlo Siliotto, collegato con noi da Los Angeles. Soundcheck, il suono della musica. il suono particolarissimo dei Floating Points in Silhouettes qui al soundcheck di Radio 24 con il maestro Carlo Siliotto collegato con noi via Skype dalla sua casa studio di Los Angeles, lì a Marina del Rey. Carlo Siliotto l'abbiamo presentato, ormai ce l'ha detto anche lui, quasi 20 anni fa ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, ha scelto come base Los Angeles perché per un compositore di colonne sonore è la città ideale. Allora, però inserirsi, mio caro Carlo, nell'ambiente, io lo so, non è assolutamente facile perché il livello è altissimo, la competizione esiste, quindi secondo te, adesso facendo un esame delle tue attitudini, qual è stato il tuo punto di forza? Perché alla fine hai scelto Los Angeles e le produzioni cinematografiche chiamano Carlo Siliotto per le composizioni? Guarda, il mio punto di forza e la mia particolarità qui è il fatto che io, essendo nato come un musicista folk, cioè qualcuno che si è occupato di ricerca e di riproposizione della musica popolare in Italia, e avendo continuato col Canzoniere del Lazio, avendo continuato questa attività che ci ha portato a fare nel 76, un 77, un tour in tutto l'East Africa e quindi entrare in contatto anche con la cultura africana, con la musica, ha continuato a essere parte del mio DNA di musicista, quello di avere a che fare con la musica tradizionale dei popoli, che io che odio definire etnica. Il termine musica etnica mi repelle perché una persona non suona una musica per una sua appartenenza etnica, ma semmai per una sua appartenenza culturale, e poi etnico è comunque una parola che ti rimanda alla pulizia etnica, allo stupro etnico, al razzismo, è una brutta parola, e poi oltretutto è una parola molto molto bianco occidentale, nel senso che sarebbe come se gli indiani o i cinesi chiamassero etnico Beethoven semplicemente perché la sua musica si muove su dei codici diversi da quelli della musica tradizionale cinese, che è la musica classica dei cinesi, o della musica tradizionale indiana, che è la musica classica degli indiani. Detto questo, poi c'è la musica popolare, cioè la musica non scritta, la tradizione orale, e questo fa parte delle culture di tutti i popoli, ma non per questo si deve definire etnica. Questo che vale per la musica in generale vale poi in tutti gli ambiti della musica, compresa l'orchestrazione. Certo. Ci sono strumenti come, non so, l'erku, la zampogna, l'erku è il violino cinese, il kobiz, che è il violino kazako, che è uno strumento che è vicino alla voce umana come nessun altro strumento al mondo, però non è una voce umana. Non esiste nell'orchestra sinfonica un altro strumento come quello. Allora, oggi per fortuna la cultura è globale e quindi ci sono risorse anche nel suono, risorse anche nella strumentazione che uno può raccogliere e dalle quali uno può trarre vantaggio in qualunque parte del mondo, insomma. Certo, e poi comunque sono strumenti e suoni che un compositore deve conoscere, proprio perché poi si trova ad affrontare delle produzioni cinematografiche dirette da registi che hanno un certo tipo di visione e vogliono quel tipo di ambientazione anche sonora. E allora tu mi parlavi di strumenti kazaki e sì. Allora approfitto per presentare agli amici di Radio 24 un'altra composizione che hai realizzato qualche anno fa e che tra l'altro ti ha portato anche ad avere una nomination per i Golden Globes, e non è male. No, è stato, e questo comunque è considerata un po' la mia particolarità, quello di sapermi giostrare con questo tipo di cose. Allora, questo è Kazakh Victory, il film era Nomad the Warrior, quanti anni fa? Questo era 2007. Can you hear me? Wow, mi. Soundcheck, il suono della musica. E questa è un'altra composizione intitolata El Semaforo, brano scritto, lo dico, dal maestro Carlo Siliotto per la colonna sonora del film La misma luna, film diretto da Patricia Riggen. E con questa operazione, mio caro Carlo, ti si sono aperte le porte del cinema messicano, quindi se sei a Los Angeles poi insomma sì, prendi la macchina, vai in Messico e curi le tue pubbliche relazioni con i registi messicani. Sì, sì, io, questo effettivamente è stato un film molto fortunato, perché è un film che è costato tipo 1.2 milioni e in una notte è stato venduto a Sundance per 8.000.000+. Quindi è stato un po' un evento, e poi è stato il primo film che ha riportato la audience latina nei cinema, perché la audience latina aveva questa reputazione di non vedere i film al cinema, cioè nei teatri, ma di vedere i film poi in televisione, di non spendere volentieri i soldi in questo tipo di intrattenimento. E questo film invece ha sfatato, è stato il primo film che ha sfatato completamente questa cosa. Quindi è stato importante e mi ha portato effettivamente poi altri lavori, di non solo in Messico ma anche in Colombia, e quindi io per fortuna parlo abbastanza bene lo spagnolo, mia madre era di origini spagnole, quindi è un idioma che ho sempre sentito in casa mia, e quindi questo mi ha facilitato molto anche nelle relazioni, nel relazionarmi con e i messicani sono delle persone eccezionali. La California sarebbe un posto molto più triste senza i messicani, a parte che era Messico, e quindi però veramente c'è un bellissimo film, non so se tu l'hai mai visto, si chiama One Day Without a Mexican, un giorno senza un messicano, ed è un film bellissimo fatto dal figlio di Alfonso Arau, Sergio Arau, che tra l'altro è un rocchettarone serio, come regia, che racconta e immagina un giorno di California senza messicani. E quindi sarebbe completamente un paese fermo, bloccato. Certo. Sarebbe un'altra California e un'altra. E anche più triste, certamente, oltre che bloccata. Senti, Carlo, velocemente ci puoi raccontare come funziona il tuo lavoro? Ma il mio lavoro funziona in generale che le persone che sono interessate al mio lavoro mi contattano direttamente o contattano i miei agenti, e dopodiché io chiedo sempre di vedere la prima copia del film senza nessuna musica di appoggio, o perché questa che è utile come linguaggio di scambio in un secondo momento, però qui si usa molto fare dei preview con della musica che non è quella che sarà poi la musica del film, ma che è musica che dà delle indicazioni, che dà delle indicazioni, ecco. Però siccome la scelta dell'architettura di una musica su un film è anche proprio un discorso strutturale, allora bisogna anche avere l'opportunità, io sento la necessità, perlomeno nel mio caso, di vedere una volta almeno il film senza nessuna musica d'appoggio. Dopodiché si fa una sessione che in generale si chiama spotting. Questo termine viene dal fatto che una volta si faceva uno spot, cioè un segno, un tondino o sulla pellicola, per indicare dove cominciava e dove finiva, dove doveva cominciare e finire il pezzo di musica. Sì. E questo spotting oggi diventa il fatto che uno si siede col montatore e col regista, questo nella migliore delle ipotesi, e si discute che ruolo la musica debba avere nel film, come distribuirla nel film, come decidere rispetto alle diverse sequenze come applicarla. Ecco, questo è l'aspetto tecnico del lavoro, poi c'è la fase creativa. Comunque la fase creativa è un dono che viene, che non si sa da dove, perché c'è un momento in cui ti arrivano tre note, quattro note, e tu puoi girare intorno a tutto il mondo, ma le prime note che ti arrivano in testa sono sempre quelle giuste, poi uno deve lavorarci intorno, svilupparle, continuare su quelle, ma è ormai è proprio dimostrato. Io mi ricordo che agli inizi della mia carriera dicevo: ma non può essere che sia questo il tema, e passavo una settimana a cercare altre cose, a investigare, e poi tornavo sempre alla prima intuizione. E quello purtroppo è una cosa che e che è così, cioè tu devi avere fiducia nel tuo istinto e avere fiducia in questo segnale che arriva, che non si sa da dove, che ti manda queste cose. D'altronde è un dono particolare quello di riuscire a musicare delle immagini, di sentire della musica. Assolutamente, anche se sì. non si sente. Senti, tu mi hai detto adesso, hai confermato quello che io penso, che comunque l'istinto è fondamentale per un artista, per un musicista. Allora ti voglio far ascoltare un musicista che ha un grandissimo istinto, un musicista che arriva da New Orleans, giovanissimo, si chiama Christian Scott, trombettista, ha messo su un progetto molto interessante che si chiama Stretch Music, il brano è Perspectives, è Christian Scott al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. En Familia è il titolo di questo brano, tratto dalla colonna sonora del film di Eugenio Derbez intitolato Instructions Not Included, film che ha ottenuto grandissimo successo non solo in Messico ma anche negli Stati Uniti, con colonna sonora scritta dal nostro Carlo Siliotto, residente a Los Angeles e con il quale ci stiamo intrattenendo via Skype. Complimenti anche per questa composizione, Carlo. Io non so cosa dirti, intanto non vedo l'ora di venirti a trovare, e poi volevo chiederti una cosa. Tempo fa tu sei tornato in Italia, e quando torni in Italia certo hai appuntamenti di lavoro, componi anche per registi italiani, però com'è l'Italia vista dalla tua prospettiva, visto che vivi e lavori a Los Angeles? L'Italia è il mio paese, dove vive mio figlio, dove vive la mia famiglia, dove ci sono i miei amici di una vita. Oggi è meno distante perché, grazie a Dio, appunto c'è Skype, ci sono tutti questi mezzi, per cui ci sono amici che io vedo più spesso, amici italiani con i quali comunico più spesso quando sono qui che quando sono in Italia. Ecco, questo però per i rapporti affettivi, no? Siamo tutti legati. Sì, questo io, la domanda mia però lavoro, è sul piano del lavoro. Io ho l'impressione che l'Italia abbia guarda, qui arrivano ragazzi tutti i momenti, arrivano dei ragazzi che si offrono anche di lavorare gratis, fare internship, e arrivano con dei diplomi stellari, con dei titoli di studio incredibili, con delle capacità incredibili e con una voglia di fare incredibile, e questi grandissimi talenti sono in Italia, sono italiani, solo che questi ragazzi, questi talenti di tutte le età poi sbattono, io ho l'impressione, il muso contro un muro di funzionari messi lì in quota da qualcuno, o i quali non sanno nulla dei loro mestieri e che umiliano invece il talento di chi dovrebbe andare avanti. Questa è un po' la mia sensazione, che ancora ci sia un gap di natura sociopolitica che impedisce che il nostro talento sia completamente soddisfatto e possa volare con le proprie ali nel proprio paese, insomma, perché se no non ci sarebbe una tale migrazione di persone verso, non solo qui, vanno a Berlino, vanno a Barcellona, vanno a New York, vanno in Canada, però trovano difficilissimo trovare uno spazio nel loro paese. Ecco, quindi questo mi fa una grande tristezza. Poi, per quanto riguarda il mio personale mestiere, è un piacere per me lavorare con i registi con i quali lavoro in Italia, perché fondamentalmente sono degli amici, e quindi noi, quando poi ci mettiamo a lavorare, siamo come una factory, no? Siamo come una officina, ecco. Allora, Carlo, noi ci vediamo presto, io dovrei venire dalle tue parti probabilmente in primavera, magari andiamo a vedere musica, ci facciamo le nostre passeggiate sulla spiaggia, e intanto ti aspetto in Italia. Che fai a Natale? Riesci a fare un salto, perché ci siamo, fra qualche giorno è Natale? E no, nonostante sia ancora qui, sia vicino, ancora non ho capito bene cosa devo fare, perché c'ho un po' il lavoro che mi trattiene un qua, un po' la voglia magari di venire, però normalmente non vengo per Natale. Quest'anno forse avrei più voglia di venire, però mi sa che non ci riuscirò. Oh, e quindi ci faremo poi gli auguri magari via Skype io e te. Assolutamente, però, sì. Intanto te li faccio adesso. Grazie. E quindi, però magari ci sentiamo. Io spero di riuscire anche a fare un salto a Cuba a questo inverno, perché ci sono stato recentemente, ho avuto una sorta di epifania con la musica cubana e tutto, che già conoscevo naturalmente, ma che vederla e viverla è un'altra cosa. Lì è un'altra cosa. Assolutamente sì. Allora Carlo, auguri di buon Natale, auguri, complimenti per la tua meravigliosa carriera, ci vediamo presto. E quindi non mi resta che salutarti. Grazie. Salutare anche gli amici di Radio 24. A tutti voi buonasera, noi ci risentiamo domani sera sempre alle 19:15 con il soundcheck, però insomma gli auguri di buon Natale li faccio a tutti, ci sentiamo domani. Grazie Carlo. Grazie a te, grazie a tutti, ciao.